Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alba Rohrwacher legge Il Mago di Oz, di Frank Baum. Introduzione e traduzione di Sara Sollors. Il meraviglioso Mago di Oz è stato pubblicato a Chicago, nel Midwest, al centro di un'America piena di trasformazioni, nel 1900. Baum non nasce come scrittore, bensì come una sorta di inventore del grande magazzino. Infatti, nello stesso anno in cui pubblica Il Mago di Oz, pubblica anche un libro sull'arte della vetrina. L'ideologia dietro a questa specie di fiaba modernizzata, come la definisce lui nella sua stessa introduzione, è di creare per il bambino moderno una fiaba che sia educativa, ma al tempo stesso che intrattenga. Baum credeva infatti che le fiabe classiche come quelle dei fratelli Grimm contenessero troppo orrore e reprimessero troppo il senso di meraviglia e intrattenimento essenziale al bambino moderno. Questo non significa che lui non credesse nel valore della letteratura come tale, anzi sosteneva che il bambino per crescere sano aveva bisogno di una buona casa, di insomma un buon nutrimento, di una buona educazione e anche di una buona selezione di libri per stimolare la mente. C'è quindi un progetto propedeutico dietro questo libro fin dall'inizio, che rispecchia molto la cultura americana contemporanea. E per quanto riguarda il mio coinvolgimento, io ho tradotto questo libro a 16 anni, sono cresciuta con Il Mago di Oz, sia la versione appunto libro pubblicata nel 1900, che la versione cinematografica del 39, che ha reso il musical di Broadway un grandissimo successo in tutti i cinema e che i miei genitori mi facevano guardare sempre da piccola. E credo che soprattutto per quanto riguarda la prima parte del libro, quello che lo rende così diverso e così entusiasmante anche per il lettore è quest'idea che parte dall'esperienza comune, un'esperienza tipica americana del Kansas, di questa nuova espansione di territorio in cui c'è molto sviluppo ma anche un'idea di normalità che in genere non appartiene alla fiaba. Baum invece di mettere il fantastico come mondo separato lo include come sottomondo all'interno dell'esperienza di Dorothy. Quindi c'è questa ragazzina che comincia nel Midwest e tramite questo insomma escamotage del ciclone si ritrova in questo posto completamente diverso. E l'altra cosa che a me è sempre molto piaciuta del libro è quest'idea di quest'eroina, eroina molto pragmatica ma anche ingenua, che è un po' questo prototipo della fiaba americana, se vogliamo, nel senso che si ha quest'idea del lei vuole sempre tornare a casa, il mondo fantastico non è suo, però applica nel mondo fantastico tutte le nozioni che la distinguono come bambina americana e contemporanea. C'è comunque all'interno di questo libro anche una deviazione dalla fiaba tradizionale, e mentre di solito c'è questa ricerca di qualcosa e tramite il fatto si incontrano o non si incontrano dei personaggi, qui c'è proprio un senso che tutti i personaggi hanno già in se stessi il potenziale e tutto ciò che cercano. Cioè lo spaventapasseri è chiaro che ha un cervello, l'uomo di latta è chiaro che ha un cuore e quindi la ricerca è più un processo di crescita piuttosto che un arrivare da una tappa A a una tappa B. Io sto pensando soprattutto alle fiabe che ha raccolto Calvino, che io amavo tantissimo da piccola, dove c'è proprio questo elemento della crescita e dell'ottenimento delle cose, dei valori. E qui è tutto presente, è tutto implicito fin dall'inizio, che aggiunge un elemento di realismo, secondo me, all'interno della fiaba, che è molto bello. Poi ovviamente c'è questa idea dei miti competitivi della natura e del progresso, che è legata a questa cosa dell'inerenza dei valori. Cioè certo è vero che tutti hanno questi tratti che si sviluppano all'interno del libro, ma è anche vero che c'è un elemento della natura in cui sono inseriti che è contrapposto, secondo me più validamente nel caso dell'uomo di latta, ha un'idea del progresso che spesso è l'inverso di quello che uno si aspetta, nel senso che l'uomo di latta, al contrario di Pinocchio, comincia, cioè nell'antetempo della storia, è un essere umano e si trasforma poco a poco in latta. E la ricerca non è un ritorno per lui, allo scopo della ricerca, non è un ritorno allo stato originario, ma è qualcosa che è suo, cioè un cuore, un tipo di sentimento che viene separato sia dalla nozione della modernità, della latta, sia dalla nozione dell'umanità inerente, da condividere e appassionarsi agli altri. In realtà la storia particolare dell'uomo di latta è che è un prototipo, è nato come prototipo per l'Emporium Baum's Bazaar. Baum aveva questo appunto grande magazzino in Dakota, e era l'uomo di latta era una delle figure che aveva messo in vetrina. Questo si lega sia a un processo di progresso, non progresso, natura, non natura, ma anche a un'idea dell'umanizzazione del prodotto commerciale. C'è un momento molto bello nel libro in cui c'è le creature di porcellana e Dorothy guarda una delle creature di porcellana, questa piccola mungitrice, mi sembra, e dice: vorrei tanto poterti portare via e metterti sulla mensola di mia zia M. E la bambolina di porcellana la prega di non farlo perché lì perderebbe l'animazione. E quindi è come entrare nel mondo della vetrina. E per i bambini, secondo me, questo aggiunge un elemento di magia, no? L'idea che uno guarda i giocattoli e che essi, quando uno si gira, hanno una vita propria, che in un certo senso scompare, forse tragicamente, nel momento dell'acquisto. Quindi non è una versione proprio semplicistica del consumo, dell'acquisto di beni, degli oggetti per i bambini. E è un'idea che viene reiterata molto spesso nelle fiabe moderne posteriori, se uno può considerare per esempio i film animati della Disney come Toy Story o queste cose qua. E c'è anche nell'analisi del Mago di Oz, perché ha avuto talmente tanto successo negli Stati Uniti, molti critici si sono prestati a guardare i significati allegorici o comunque più profondi di questa fiaba. Uno che ha fatto da Ray Bradbury, l'autore di Fahrenheit 451, è che rappresenta la fondamentale scissione tra sognatore ed investigatore dei fatti, combinando in effetti il mondo pragmatico e in un certo senso adulto e il mondo ideale dei bambini. E, spingendo oltre, ci sono queste teorie che sostengono che il ciclone, appunto accade all'inizio del libro, che trasporta la casa di Dorothy, è una metafora riguardo l'obbligo dell'immigrazione. Nel 1900 in America ci sono 1 milione di emigrati, come il pellegrino Bunyan, e quest'idea della porta dorata, della città dorata, come l'America stessa, è l'utopia, è l'impossibilità di vivere all'interno di quest'utopia, che forse alla fine viene meglio rappresentata dalla figura del mago di Oz, che si definisce un cattivo mago ma un buon uomo. Quindi una scissione fondamentale anche nell'individuo tra questo mondo ideale e il mondo del reale, che è nuovo in questa fiaba. Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain. Quanto riguarda più prettamente la traduzione, io quando ho ho fatto una presentazione sul Mago di Oz anni fa, ho cominciato con questa citazione di Ungaretti che a me è sempre piaciuta molto: la lingua è simbolo della civiltà di un popolo. Per me rendere questo testo accessibile, o perlomeno contribuire alla sua diffusione, non solo è stato un privilegio immenso, ma è anche un'idea basata su un'idea di condivisione di qualcosa che secondo me è profondamente emblematico di una cultura americana sicuramente, ma anche di una cultura paradigmaticamente moderna. Cioè il ruolo che la fiaba o questa storia in particolare ha nell'immaginario comune oggi di meraviglia nella normalità, basata anche sulla consapevolezza del ritorno e la separazione da un mondo ideale, cioè tra un mondo ideale e un mondo insomma reale e forse anche un po' più triste. Sto pensando in particolare all'inizio del libro, c'è questo momento in cui c'è questa descrizione veramente amara del Kansas, tutto è grigio, un po' cupo. E poi c'è la risata, irrompe la risata di Dorothy e c'è come questo momento, questo sprazzo di colore, l'unico elemento di colore in effetti in questo inizio, che dà comunque l'idea che anche se c'è la noia e c'è la monotonia della vita, c'è anche la gioia istantanea del bambino che si accontenta di scoprire un mondo nuovo all'interno del proprio mondo. Secondo me c'è anche la canzone che è diventata un po' emblema di questo romanzo, che è cantata da Judy Garland nel famosissimo film del 39, Somewhere Over the Rainbow, che è all'inizio del film e corrisponde appunto all'inizio del romanzo, che il momento in cui lei guarda col fido canino Toto, si guarda intorno e sogna di un posto oltre l'arcobaleno dove tutto è più reale, più intenso, più bello, e contrapposto alle canzoni composte alla fine di questo musical, in cui c'è proprio il desiderio di riuscire a arrivare a casa. Riguardo al personaggio proprio di Dorothy, più prettamente c'è anche un altro discorso che a me ha sempre molto impressionato. Dorothy non fa le cose inizialmente soprattutto apposta. Riceve questo grandissimo premio per aver ucciso la strega che dominava gli gnammi all'inizio, ma in realtà è tutto frutto del caso, non il fatto. Lei arriva con il ciclone, la sua casa schiaccia quando uccide la strega alla fine simmetrica del romanzo. Lei è per frustrazione che lei le butta addosso l'acqua, non sa che la distruggerà. E c'è questa idea dell'intenzione di questa bambina e della fondamentale bontà si introduce quando il mago le parla come, insomma, vulnerabile di fronte alla potenza del mondo. Non è una bambina aggressiva o un personaggio che fin dall'inizio mostra una forza spropositata o dei talenti straordinari. È una bambina comune a cui capitano delle cose straordinarie. Questo a me ha sempre fatto molta tenerezza, perché è l'idea che, almeno da me, cioè leggendolo da piccola, c'è inclusa l'idea del tutto è possibile per tutti, che è molto utopico e forse un po' infantile, però secondo me è una nozione veramente bella che la fiaba riesce a rendere alla meraviglia. Per quanto riguarda la mia scelta in particolare e le mie abilità di tradurre, legate alla traduzione di questo romanzo, io sono cresciuta bilingue e quindi ho sempre giocato molto col linguaggio, ho studiato il tedesco, adesso all'università studio francese, ho fatto il liceo classico e quindi greco e latino, e quindi c'è sempre molto entusiasmo per me nell'affrontare la lingua, e in questo senso il Mago di Oz in realtà pone un problema, perché c'è un equilibrio tra la giocosità delle parole e questi significati più profondi allegorici che la gente intravede, ma che secondo me sono senz'altro presenti, poi insomma il limite c'è, però c'è questa idea di quanto conta una singola parola per rendere un sentimento, una frase o alludere, E quindi mi ha sempre molto, molto affascinato. Trovo che nei libri per bambini questo tipo di sottigliezze acquisiscono un'importanza veramente fondamentale, perché uno vuole, cioè certo c'è il progetto educativo di Baum dietro, ma c'è anche quest'idea che deve essere un linguaggio accessibile e che incuriosisca, come la fiaba stessa, cioè esatto, a cavallo tra il reale e l'irreale, tra il mondano e il fantastico. E quindi io mi sono veramente divertita, io ho tradotto questo libro in un'estate, essenzialmente un'estate, e poi ovviamente con una varia equipe di editori che mi hanno aiutato tantissimo. Mi ricordo proprio, ero seduta a casa che facevo questi confronti e cercavo di capire l'equilibrio tra struttura grammaticale, che è molto importante, ma anche proprio il significato più accessibile per i bambini, delle parole come gnammi, che sono i munchkins in inglese, oppure i quadlings, che abbiamo tradotto come quadrumpoli, e il leone che abbiamo reso come leone fifone. Sono tutte traduzioni un po' diverse da quelle che c'erano nelle traduzioni precedenti di Baum, ma che secondo me, secondo tutti quelli con cui ho lavorato, erano più accessibili e simpatiche in un certo senso, anche se è una parola un po' bruttina da usare, delle alternative. Quindi niente, spero che piaccia questo libro. A me è piaciuto moltissimo tradurlo e amo moltissimo il testo in sé, quindi spero che diverta quanto ha divertito me. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Dorothy abitava nel bel mezzo delle grandi praterie del Kansas, con lo zio Henry, un contadino, e la zia Em, la moglie del contadino. La casa era piccola, perché il legname che era servito per costruirla veniva da molto lontano. C'erano quattro muri, il pavimento e il tetto, insomma una stanza, e nella stanza una stufa con un'aria un po' arrugginita, una credenza per i piatti, un tavolo, tre o quattro sedie e i letti. Lo zio Henry e la zia Em avevano un lettone in un angolo e Dorothy un lettino in un altro. Non c'era neanche una soffitta e nemmeno una cantina, solo un buchetto scavato nel terreno, la cantina dei cicloni lo chiamavano, dove la famiglia avrebbe potuto rifugiarsi in caso d'una tromba d'aria, di quelle così forti da distruggere tutto ciò che si trovano davanti. Ci si entrava attraverso una botola in mezzo al pavimento, per una scala che scendeva giù nel buco stretto e buio. Quando Dorothy si affacciava alla porta e si guardava intorno, vedeva solo una grande prateria grigia. Non un albero né una casa interrompevano la grande distesa di campagna piatta che da ogni parte confinava con il cielo. Il sole aveva cotto la terra arata fino a farla diventare un ammasso grigio attraversato da piccole crepe. Persino l'erba non era verde, perché il sole ne aveva bruciato le punte fino a farle diventare dello stesso colore grigio che si vedeva dappertutto. Una volta la casa era stata dipinta, ma il sole aveva screpolato la pittura e le piogge l'avevano lavata via, e adesso anche la casa era mogia e grigia come tutto il resto. Quando la zia Em era andata ad abitare lì, si era appena sposata ed era giovane e bella. Il sole e il vento avevano cambiato anche lei. Avevano rubato la scintilla dai suoi occhi e li avevano lasciati di un grigio cupo. Le avevano portato via il rosso dalle labbra e dalle guance, diventate grigie pure loro. Era lunga e magra adesso e non sorrideva mai. Quando Dorothy, che era un'orfana, arrivò da lei, la zia Em era rimasta così sorpresa dalle risate della ragazzina che in qualsiasi momento sentisse la sua voce allegra si metteva a gridare e si teneva fermo il cuore con la mano. Non finiva mai di meravigliarsi che trovasse qualcosa da ridere. Lo zio Henry non rideva mai. Lavorava sodo dalla mattina alla sera e non sapeva cosa fosse la gioia. Anche lui era grigio, dalla barba lunga agli stivali grezzi. Aveva un'aria solenne e severa e parlava di rado. Era Toto che faceva ridere Dorothy e la salvava dal diventare grigia come tutto il resto. Toto non era grigio. Era un cagnolino nero, con il pelo lungo e liscio, un nasino buffo tra degli occhietti neri che luccicavano allegramente. Toto giocava tutto il giorno e Dorothy giocava con lui e gli voleva molto bene. Oggi però non stavano giocando. Lo zio Henry era seduto sulla soglia di casa e fissava preoccupato il cielo, ancora più grigio del solito. Anche Dorothy, sulla porta con Toto in braccio, guardava il cielo. La zia Em lavava i piatti. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. Dal lontano nord sentirono venire il gemito del vento e lo zio Henry e Dorothy videro i fili d'erba ondeggiare e piegarsi per l'avvicinarsi della tempesta. Subito dopo arrivò da sud un fischio acuto e guardando da quella parte videro l'erba incresparsi anche là. Lo zio Henry si alzò di scatto. «Sta arrivando un ciclone, Em!» gridò a sua moglie. «Vado ad occuparmi delle bestie!» e corse verso le stalle dove tenevano le mucche e i cavalli. La zia Em lasciò il suo lavoro e si avvicinò alla porta. Le bastò un'occhiata per rendersi conto del pericolo. «Presto, Dorothy!» gridò. «Corri in cantina!» Toto le sfuggì dalle braccia e si nascose sotto il letto, e Dorothy si precipitò a riprenderlo. La zia Em, molto spaventata, aprì la botola e scese nel buco stretto e buio. Dorothy riuscì a prendere Toto e fece per seguire la zia, ma attraversata metà della stanza sentì, fortissimo, l'urlo del vento, e la casa fu scossa con una tale forza che Dorothy perse l'equilibrio e si ritrovò seduta sul pavimento. Poi accadde una cosa strana. La casa girò due o tre volte su se stessa e piano piano si alzò da terra. Dorothy si sentì come se si trovasse in un pallone che volava sempre più su. Il vento del nord e quello del sud si incrociarono sopra la casa, al centro esatto del ciclone. L'aria lì era più o meno ferma, ma la grande pressione del vento tutto intorno faceva salire la casa sempre più in alto, spingendola su, su e ancora su, proprio in cima al ciclone. E là rimase, trasportata come fosse una piuma a miglia e miglia di distanza. Era molto buio e il vento ululava terribilmente intorno a lei, ma Dorothy pensò che dopo tutto quel viaggio non era così male. Dopo le prime capriole e dopo che la casa fece un tuffo improvviso, si sentì dondolare dolcemente, come un neonato in culla. A Toto tutto questo non piaceva. Correva qua e là per la stanza e abbaiava senza sosta. Dorothy invece aspettava, seduta là senza muoversi, curiosa di vedere ciò che sarebbe accaduto. Capitò che Toto, avvicinandosi troppo alla botola aperta, ci cadde dentro. Dorothy pensò di averlo perso, poi però vide spuntare fuori un orecchio, perché la pressione dell'aria, sempre fortissima, lo teneva sospeso. Trascinandosi verso il buco, riuscì a prendere Toto per l'orecchio e a riportarlo indietro. Chiuse quindi la botola, così da evitare altri incidenti. Le ore passarono, una dopo l'altra, e piano piano Dorothy dimenticò la paura. Si sentiva un po' sola, e il vento gemeva intorno a lei così forte da farla quasi diventare sorda. Si chiese se si sarebbe ridotta a pezzetti quando la casa fosse ripiombata a terra. Ma passavano le ore e non succedeva niente di terribile, e così smise di preoccuparsi, decise di aspettare con calma e vedere cosa le riservava il futuro. Infine, muovendosi a carponi sul pavimento traballante, raggiunse il suo letto e lì si sdraiò. Toto la seguì e si distese accanto a lei. Nonostante l'ondeggiare della casa e i gemiti del vento, poco dopo Dorothy chiuse gli occhi e si addormentò. Si svegliò di soprassalto, per uno scossone forte e improvviso, e se Dorothy non fosse stata distesa sul letto morbido, si sarebbe sicuramente fatta del male. Stando così le cose, trattenne il respiro, chiedendosi cosa fosse successo, e Toto avvicinò il nasino freddo al suo viso e cominciò a guaire desolato. Dorothy si alzò e si accorse che la casa non si muoveva più, e non era nemmeno buio, perché la luce del sole filtrava dalla finestra inondando la stanzetta. Saltò giù dal letto e, seguita da Toto, corse ad aprire la porta. Sorpresa, si guardò intorno e, vedendo solo meraviglie intorno a sé, spalancò gli occhi per lo stupore. Era davvero insolita, per un ciclone, la delicatezza con cui la casa fu appoggiata a terra, nel mezzo di un paese di straordinaria bellezza. C'erano ciuffi d'erba verde dappertutto, con degli alberi maestosi, carichi di frutti deliziosi e di bell'aspetto. Dovunque si guardasse, c'erano aiuoli di fiori stupendi, e rari uccelli variopinti cantavano e svolazzavano tra gli alberi e i cespugli. Un po' più in là c'era un ruscello che scorreva luccicando tra rigogliose rive verdi. Un mormorio gradito a una ragazzina vissuta così a lungo nelle aride praterie grigie. Alvar Horvacher ha letto Il Mago di Oz di Frank Baum. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.